America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da Ramallah, Mario Platero. Siamo in territorio palestinese con il presidente degli Stati Uniti, Barack Obama. Il viaggio in Medio Oriente continua questa volta con l'obiettivo centrale di avanzare il processo di pace, un recupero del processo di pace fra israeliani e palestinesi. Ieri Barack Obama è stato chiarissimo, ha detto che per il momento vuole ascoltare, vuole cercare di raccogliere quanto più possibile informazioni, materiale, consigli da coloro che sono schierati sul campo, per poter poi procedere in un secondo tempo con iniziative volte a riproporre l'idea, l'unica possibile, il presidente americano, l'idea di creare due stati che possano coabitare pacificamente con due popoli. Toccherà al segretario di Stato John Kerry poi formulare delle proposte, mettersi al centro del processo di mediazione, almeno così abbiamo raccolto in ambienti vicini alla Casa Bianca. I reaffirm to President Abbas that the United States remains committed to realizing the vision of two nations enjoying self-determination, security and peace. Come avete sentito, c'è stata una conferenza stampa congiunta tra Barack Obama e Abu Mazen, il presidente palestinese, il leader palestinese. L'incontro è stato molto cordiale. L'obiettivo di Abu Mazen resta quello di riprendere un dialogo costruttivo con la controparte israeliana. Soprattutto l'obiettivo resta quello di dare consistenza a quella proclamazione dello Stato palestinese che tutti abbiamo testimoniato nell'autunno scorso a New York, alle Nazioni Unite, votata, approvata dalla maggioranza dell'Assemblea Generale dell'ONU, ma che poi è rimasta, come dire, una chimera, una proclamazione più dal punto di vista formale che da quello sostanziale. Il rischio è che l'idea di creare lo Stato palestinese da un punto di vista concreto, reale, possa evaporare se non si restituirà, come dire, momentum a questa iniziativa ormai ferma da troppo tempo. Ma il momento più importante di questo viaggio di Barack Obama in Medio Oriente lo abbiamo avuto ieri durante la sua prima tappa a Gerusalemme e soprattutto durante l'incontro con il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. I think that what Bibi alluded to, which is absolutely correct, is each country has to make its own decisions when it comes to the awesome decision to engage in any kind of military action. Avete sentito il presidente Barack Obama in un passaggio chiave della conferenza stampa. L'incontro di ieri con Benjamin Netanyahu è stato dedicato, come del resto ci si aspettava, per la stragrande maggioranza alla questione iraniana, al pericolo che l'Iran vada avanti con i suoi programmi per l'arricchimento dell'uranio e possa essere nella condizione di poter sviluppare un'arma atomica, come ha detto lo stesso Barack Obama, entro un anno. In questo suo intervento, però, di fatto Barack Obama ha autorizzato Israele a tutelare la sua sicurezza in modo autonomo, in modo indipendente, e dice in modo molto esplicito il presidente americano, così come gli Stati Uniti non possono, non potrebbero delegare la loro sicurezza a terze parti, allo stesso modo dobbiamo accettare che Israele possa e debba difendersi nel momento in cui, da un punto di vista della sicurezza, la situazione per loro dovesse diventare inaccettabile. Dunque una luce verde, un primo baratto importante ieri a Gerusalemme. L'America concede autonomia a Israele per tutelare la propria sicurezza nei confronti dei progetti atomici iraniani. In cambio Bibi Netanyahu non parla più di linea rossa, non parla più di stabilire una data al di là della quale si potrà attaccare, e si darà dunque spazio all'azione diplomatica per risolvere l'impasse. Ecco, questo è un po' il baratto. Delle scadenze tuttavia ci sono. Benjamin Netanyahu ha chiarito che da qui a un anno l'Iran potrebbe essere in grado di costruire l'atomica, ma l'arricchimento o comunque il punto di non ritorno dal punto di vista israeliano potrebbe avvenire molto prima. Barack Obama ha confermato la linea israeliana, quella cioè che nei confronti dell'Iran non si parla di containment, di contenimento, ma si parla di prevenzione. E lo stesso presidente americano ha detto che nel caso di fallimento dell'azione diplomatica tutte le opzioni, dunque inclusa l'opzione dell'attacco, restano sul tavolo. Beh, cosa emerge da questo incontro? Che chiaramente gli Stati Uniti si terranno ai margini, ma delegano a Israele la possibilità di condurre un attacco che Benjamin Netanyahu ha detto potrà essere di successo. La situazione dunque si scalda, abbiamo delle date davanti a noi, io non credo che succederà nulla sicuramente prima di metà giugno, quando ci saranno le elezioni in Iran. A quel punto riprenderà l'azione diplomatica americana per cercare di trovare con la nuova leadership un accordo per fermare il progetto di arricchimento dell'uranio. Si darà tempo alcuni mesi, ma la data al di là della quale difficilmente si può immaginare che Israele possa andare è ormai fissata attorno a settembre, ottobre, forse novembre di quest'anno. Assad has lost his legitimacy to lead by attacking the Syrian people with almost every conventional weapon in his arsenal. Secondo tema molto caldo ha riguardato la Siria. Sono state uccise 70.000 persone nella guerra civile siriana, ci sono stati milioni di persone che hanno sofferto, che hanno dovuto lasciare le loro case, milioni di rifugiati, problemi geopolitici ai confini della Siria, soprattutto con la Turchia. Per gli Stati Uniti è giunto il momento di una svolta. Barack Obama è stato chiaro nel suo intervento, lo avete sentito, il leader siriano Assad se ne dovrà andare, è soltanto questione di tempo. Ma il presidente americano ha fatto qualcosa di più, ha detto di aver avviato un'inchiesta per verificare se davvero ci sono state delle violazioni nei giorni scorsi da parte siriana nell'utilizzo di armi chimiche contro la popolazione civile. I did inform the Prime Minister that they are very good looking young men who clearly got their looks from their mother. Well, I could say the same of your daughters. Avete sentito uno scherzo tra Barack Obama e Netanyahu? A un certo punto Barack Obama dice, insomma, ho conosciuto, caro Bibi, i tuoi figli sono bellissimi e credo che abbiano preso solo da tua moglie. E a quel punto Bibi risponde, devo dire che anche le tue figlie sono bellissime e credo che anche loro abbiano preso solo da tua moglie. A quel punto Barack Obama risponde dicendo, in effetti abbiamo sposato delle donne migliori di noi per migliorare il nostro bacino genetico. Ecco perché vi ho fatto ascoltare questo passaggio, perché l'atmosfera in conferenza stampa è stata forse la più rilassata dei 10 incontri bilaterali che i due leader hanno avuto da quando Barack Obama è presidente. Del resto il presidente americano voleva usare questo viaggio anche per rassicurare il popolo israeliano, non solo sulla solidità dell'alleanza fra Washington e Gerusalemme o sul rapporto privilegiato fra i due paesi, ma sul suo impegno personale nei confronti di Israele. Come gesto non solo simbolico ma concreto, Barack Obama ha annunciato che si apriranno presto negoziati per prolungare di altri 10 anni l'intenso rapporto militare fra Washington e Gerusalemme alla scadenza degli accordi in essere nel 2017, e di fatto ha ricucito, come vi dicevo, con Bibi Netanyahu un rapporto personale che si era sfilacciato nel tempo, aveva impedito ai due leader e dunque ai due alleati più solidi nella regione di trovare un'intesa su come procedere nei vari fronti aperti. Bene, torno qui a Ramallah, dove vi ho detto è finito l'incontro bilaterale, la conferenza stampa fra Boumazen e il presidente americano. In questo momento Barack Obama sta visitando una scuola, ha avuto degli incontri anche con delle delegazioni politiche palestinesi. L'atmosfera, vi dicevo, per ora è quantomeno positiva e certamente si augurano i funzionari al seguito della Casa Bianca costruttiva. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee per seguire, continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguitemi su Twitter, @MarioPlatero, scriveteci su Facebook ed eccoci alla canzone del giorno. Da Ramallah voglio proporvi la canzone di un compositore palestinese emigrato negli Stati Uniti nel 1980 per studiare alla Columbia University. Oggi è un cittadino americano che da New York continua a suonare le musiche della sua terra di origine. Dunque, Simon Shaheen, Blue Fame. Al seguito del presidente Barack Obama è tutto. Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!